Sai che purtroppo al mondo c'è un uomo che ha già molti figli, che è ricco e rispettato. Sai che purtroppo al mondo c'è un prete di una parrocchia, l'apparenza è il migliore che c'è. Violenta sua figlia, va a Brasile a guardare il sesso con una bambina. Mi fa schifo, un pedofilo del cavo. Un pedofilo del caso.